Buongiorno Chiesa! Vogliamo alzarci in piedi e fare attività fisica? Così stamattina ci svegliamo e ci rendiamo pronti per la lasagna, per la pasta al forno. Chi ha già cucinato? Dio ti benedica. Io voglio essere come te. Non lo sono ancora diventato. Vuoi salutare qualcuno? Non chi hai salutato prima. Vuoi salutare qualcuno e minacciarlo nel nome di Gesù che se non si iscrive ad Ecclesia oggi lo spareremo. Poi no, sto scherzando. Vuoi salutare qualcuno e dire che bello che posso essere chiesa con te. Vai, andiamo. Vai da qualcuno che non conosci. Presentati. Dagli il benvenuto in maniera forte, straordinaria. Un abbraccio. Non troppo, Chiesa, non esageriamo, eh? Non esageriamo, bene. Vogliamo pregare ancora? Sento che dobbiamo pregare ancora. Quindi vuoi mettere un braccio sulla persona che hai vicino, creare proprio un muro di preghiera. Vogliamo pregare insieme, che questa domenica possa essere consacrata a Lui, che tutto quello che facciamo oggi possa dare a Lui ogni gloria, sì? In questo posto nessuno prende gloria se non l'unico nome che lo merita. Amen? Chi vuole uscire da questo posto pieno della sua gloria, pieno della sua presenza? Bene, preghiamo insieme. Gesù, grazie per la tua presenza in mezzo a noi, che è così viva, è così vera. Signore, tu ci conosci profondamente e tu, Signore, hai parole di vita, tu hai parole potenti, tu hai parole vere, parole di pace. E Padre, noi vogliamo glorificare il tuo nome perché tu sei l'unica fonte vera. Tu sei l'unica fonte vera, vogliamo glorificare il tuo nome. Tu sei un Dio potente e una chiesa piena di fede dice Amen. Amen. Vogliamo accomodarci. Amen, amen. Questo era un applauso per il taglio di capelli, grazie. Anche mio marito è molto contento, devo dire, non troverà più i miei capelli in giro, ma questa è un'altra storia. Da oggi abbiamo aperto le iscrizioni per Ecclesia. E non so tu, ma io sono super entusiasta. E voglio darci due informazioni in più. Prima di tutto, il prezzo speciale è per questa domenica e la prossima domenica. Per cui vi abbiamo già avvisato, ci siamo già avvisati, per cui dobbiamo iscriverci. Per tutti coloro che ci stanno sentendo da casa, fai in tempo a prendere un aereo e a venire qui stasera o al massimo domani pronto per iscriverti. Non ti assicuro che il risparmio sia così da coprire una spesa del volo, ma tutti coloro che oggi e la prossima domenica si iscrivono abbiamo diritto a questo prezzo speciale. Ed è stupendo, quest'anno ci sono tantissime novità. Prima di tutto gli ospiti, vi do qualche nome? Chi li vuole sapere? Vediamo se ve li voglio dire. Non ve li voglio dire, ve li dirò una prossima volta, ok? Ve li diremo una prossima volta perché sono straordinari, però voglio dirvi due cose ancora. Uno, tutto il posto in cui faremo la conferenza sarà nostro, questo è stupendo, cioè ti girerai e ti volterai e troverai tua sorella e tuo fratello da tutta l'Italia, dal resto dell'Europa, sarà tutto nostro. Per chi vuole rimanere a dormire e a mangiare lì, questo ha un prezzo a parte. Se andate oggi al punto info, ci sono delle ragazze stupende, chi c'è? Lidia, Luciana, bellissime, guardate che bello, noi le scegliamo bene, incoraggiano proprio all'iscrizione, per cui vi daranno tutte le informazioni per come fare, per dormire, qual è il prezzo, che cosa copre. Un'altra informazione stupenda che voglio darci come chiesa è che siccome è un po' distante, no? Sono 20 chilometri da qui, abbiamo pensato di mettere a disposizione della chiesa una navetta. Quindi se tu non vuoi prendere la macchina e venire lì, non tornare tardi, eccetera, abbiamo creato questa occasione. Quindi prenderemo un autobus in affitto. Anche per questo andate al punto info, perché abbiamo bisogno dei nominativi per capire quanti autobus prendere. L'autobus partirà da qui, ci porta e ci riporta, ci porta e ci riporta per 3 giorni interi. La conferenza è 3 giorni. Quindi non andare in vacanza quest'estate. Dove devi andare? A Sharm el Sheikh? No, a Mariotto devi andare. Ok? Mariotto in provincia di New York, diceva qualcuno. A Mariotto, dove devi andare quest'estate? Devi stare con noi. Quindi prendiamoci giorni, riserviamoci giorni di vacanza. Sì, siamo d'accordo? Io amo la mia chiesa. E tu? La mia chiesa è la chiesa più bella del mondo. E la tua? La mia chiesa è la chiesa più bella del mondo. Dall'anno scorso, in giro in tutta Italia, ogni volta che inizio ad insegnare e predicare, io dico questo. Io amo la mia chiesa è la chiesa più bella di tutte, la mia chiesa è la più bella del mondo, io sono fiera della mia chiesa. Io questo ho deciso di dirlo sempre. Sai perché? Perché è vero, la tua chiesa è la chiesa più bella del mondo. E se ho scelto di capire questo, è perché lo Spirito Santo ha proprio guidato il mio cuore a farlo, dall'anno scorso, anzi in realtà da più dell'anno scorso, che Dio ha messo nel cuore del pastore Ecclesia. Questa fantastica invenzione, la Chiesa. E dall'anno scorso, da 2 anni ormai, il nostro cuore, il cuore mio di Vito, era largo a forma degli upside down. Ma poi Dio lo ha allargato, e lo ha allargato a forma di tutta la Chiesa. E non solo della Chiesa qui, non solo della Chiesa a Bari, non solo della Chiesa in Italia, ma della Chiesa di Cristo. Per cui io ho scelto, e ho scelto, grazie allo Spirito Santo, di usare la mia bocca come un annaffiatore di giardino e non come una mitragliatrice per un genocidio. Io voglio parlare parole buone della Chiesa. Io voglio dire cose buone della Chiesa. Io voglio usare quello che Dio mi ha dato, le mie parole, per benedire la Chiesa. Fallo anche tu. Fallo anche tu, non so da quale chiesa vieni, da quale chiesa ci stai ascoltando, scegli oggi di parlare parole buone della tua chiesa. Sì? Primo input, di cosa parleremo oggi? Indovinate un po'? Sbagliato, delle parole. Vi ho tratto in inganno. Delle parole. Chi era qui un mese fa, ho predicato su Giacomo 3, ho cominciato a parlare dell'importanza di vivere una chiesa sana e una chiesa che porta Gesù per tutti in 2 modi espressi da Giacomo nella sua lettera e sono le parole e la sapienza. Chi se lo ricorda il messaggio? Se non l'hai ascoltato, c'è su YouTube, lo puoi leggere, ma lo puoi ascoltare chiaramente. Ma mentre lo riascoltavo, perché quando viene registrato è questo il potere, cioè diciamo croce delizia, ti rivedi, dici come stava, no questo non va bene, però puoi dire, beh, però è un bel messaggio. Però sentivo proprio che dovevamo amplificare questo discorso, perché le parole che noi pronunciamo, le parole che noi abbiamo nella nostra bocca, le parole che Dio ci dà, la possibilità e l'autorità che abbiamo con le nostre parole, è veramente straordinaria. Ma dobbiamo usarla bene. Per cui rileggiamo questa parte in cui Giacomo istruisce le tribù di Israele disperse nel mondo, ce lo ricordiamo il contesto, a usare bene il modo di parlare. Leggiamo insieme. Da Giacomo, prima di tutto Giacomo 3, dal verso 1 e 2. Questo è l'inizio del capitolo 3, lo voglio ripetere perché ci sia chiaro che nessuno di noi ha già raggiunto questo obiettivo. Quindi oggi dobbiamo andare via di qui sapendo di aver fallito un obiettivo. Ma non ce ne dobbiamo andare incoraggiati, sì, ce ne andremo via incoraggiati. Ma la Bibbia dice, Giacomo dice, che tutti quanti noi stiamo lavorando su questo. Leggiamo insieme Giacomo 3. Fratelli miei, non siate in molti a fare da maestri, sapendo che ne subiremo un più severo giudizio, perché manchiamo tutti in molte cose. Ah, ti rilassa? No. Sapevi di mancare in qualcosa? Sapere che anche chi è accanto manca in qualcosa, non ti rilassa un po' di me? Allora, siamo tutti sulla stessa barca. Giacomo dice, tutti manchiamo in molte cose. Tutti manchiamo in molte cose. Questa condizione è la condizione migliore per imparare. Dirci, ok, non siamo ancora arrivati, non abbiamo raggiunto l'obiettivo, possiamo ancora fare meglio, è bellissimo. E la Bibbia ci guarda in questa prospettiva. La Bibbia non ci guarda come delle persone perfettamente costruite. La Bibbia ci parla come delle persone santificate in Cristo Gesù, ma che lavorano perennemente su di loro, fino alla seconda venuta di Gesù. Quindi Giacomo sta dicendo, ragazzi, tranquilli, dobbiamo migliorare tutti. Ti piace? Puoi fare un sospiro di sollievo? Ah, tutti dobbiamo lavorare su queste cose. Su cosa? Ecco qui che leggiamo tutto il capitolo. Fratelli miei, non siate in molti a fare da maestri, sapendo che ne subiremo un più severo giudizio, perché manchiamo tutti in molte cose. Ah, Se uno sbaglia nel parlare, se uno non sbaglia nel parlare, è un uomo perfetto, capace di tenere a freno anche tutto il corpo. Se mettiamo il freno in bocca ai cavalli, perché ci ubbidiscano, noi possiamo guidare anche tutto il loro corpo. Ecco, anche le navi, benché siano così grandi e siano spinte da venti impetuosi, sono guidate da un piccolo timone, dovunque vuole il timoniere. Così anche la lingua è un piccolo membro, eppure si vanta di grandi cose. Osservate, un piccolo fuoco può incendiare una grande foresta. Anche la lingua è un fuoco, è il mondo dell'iniquità. Posta com'è fra le nostre membra, contamina tutto il corpo, è infiammato dalla gehenna, dà fuoco al ciclo della vita. Ogni specie di bestie, uccelli, rettili, animali marini, si può domare. Ed è stato domato dalla razza umana. Ma la lingua, nessun uomo la può domare. È un male continuo, è piena di veleno mortale. Con essa benediciamo il Signore Padre e con essa malediciamo gli uomini che sono fatti a somiglianza di Dio. Dalla medesima bocca escono benedizioni e maledizioni. Fratelli miei, non deve essere così. La sorgente getta forse dalla medesima apertura il dolce e l'amaro? Può forse, fratelli miei, un fico produrre olive o una vite fichi? Neppure una sorgente salata può dare acqua dolce. Che bello! Le vostre facce non sono convinte della bellezza di questo verso, ma questo verso ci istruisce, ci modifica, ci dà l'opportunità di imparare. È esattamente il verso della palestra, il verso che ti aiuta a migliorare. E ci ricordo che il contesto in cui stiamo lavorando, Giacomo sta parlando, è una lettera scritta a tutte le tribù del popolo di Israele dispersi in tutto il mondo. Cioè stiamo parlando di ebrei convertiti a Cristo che sono stati dispersi o dalla persecuzione, o dalla missione, o dal loro commercio, dalla vita, in tutto il mondo. Quindi parliamo di persone che erano convinte profondamente della loro relazione con Dio basata sulla legge e poi sono state convertite ad una relazione intima, ad una relazione vera con un Salvatore. E hanno cominciato a vivere in risposta a quella decisione, quindi hanno abbandonato la tradizione, hanno abbracciato il nuovo e lo hanno portato dappertutto. Che bello questo! Non è Gesù per tutti questo verso? Noi che abbiamo abbandonato o stai abbandonando il vecchio, hai abbracciato il nuovo e lo vai a proclamare a tutti. E questo è l'anno giusto. Amen? Quindi il contesto di questo verso è un popolo che vive e che ha vissuto in tre culture. La cultura ebraica, fatta proprio di prescrizioni molto precise. E dire ad un popolo di natura ebraica di porre attenzione alle parole. Ehi, questi sono maestri di parole. Hanno capito tutto tramite la legge, parole parlate a Mosè. Sapevano esattamente quali parole usare per approcciarsi o non approcciarsi a Dio. Parliamo di un popolo che conosce perfettamente il valore delle parole. Ma poi è arrivato Gesù e quindi hanno abbracciato la cultura cristiana. Hanno lasciato la cultura ebraica, hanno abbracciato la cultura cristiana. Gesù ha portato tante nuove parole. Ha portato parole di incoraggiamento, ha portato parole vai non peccare più, ha portato parole io sono il pane della vita. Ha cominciato a parlare delle parole nuove. La parola chiesa, la via, cristiani, credenti, sono tutte parole che queste stesse persone hanno abbracciato essendo parte di una cultura fatta di Cristo al centro. Siete ancora con me? Ma qui Giacomo ci sta dicendo che noi abbiamo bisogno di vivere un cambio in questo. Lo stesso popolo ha abbracciato un'altra cultura, la terza cultura. E qual è? La cultura del posto in cui sono andati a vivere. Quindi troveremo ebrei convertiti a Cristo che sono arrivati, non so, in India o in Egitto o nel Nord Africa o che si sono espansi in Europa e quindi hanno trovato la cultura, il modo di parlare del posto in cui sono arrivati. Per cui Giacomo stava dicendo a questi poverini, attenzione a come parlate, attenzione a rigettare il vecchio, a dare importanza alle parole ma non usare più le stesse parole, ad abbracciare il nuovo che è Cristo Gesù, ma a parlarlo nella maniera in cui le persone del posto in cui siete possono capirlo. Tu in quale cultura sei? Qual è la tua cultura circa il parlare? Hai nella tua bocca parole di vita, parole di incoraggiamento, parole di stima, parole di complimenti? O ti è difficile? La nostra cultura, parlo del sud, è una cultura che parla parole forti. È vero, siamo cresciuti con le parole forti, siamo stati educati dalle parole forti. Molti dicono, no, ma io non dico, io faccio più i fatti, io non sono quella delle parole. Il titolo di oggi è Cambiare il mondo con le parole. Stiamo assistendo in questa fase del nostro mondo a rivoluzioni culturali che hanno preso piede da parole. Pensiamo a Martin Luther King. È salito su un palco e ha parlato queste parole. I have a dream. Io ho un sogno. Quelle parole hanno motivato una rivoluzione culturale che ha fatto cambiare tutta la cultura del razzismo in America e in tutto il mondo. Pensiamo alla rivoluzione che ha portato Obama. Il motto di Obama era Yes we can, sì noi possiamo. Il motto del nostro pastore è Avanti insieme. Siamo davanti alla possibilità di cambiare il mondo con le parole e le parole hanno importanza. Il nostro social ce lo dice. Quanti caratteri hai per esprimere chi sei? 160 o su Twitter, 140 credo, o su Facebook. Ora abbiamo anche le vignette, no? Puoi esprimere con le tue parole qualcosa. Che cosa stai esprimendo sui social? Cos'hai scritto stamattina su Facebook? Cos'hai scritto ieri su Facebook? Quali sono i tuoi link? Che cosa posti più spesso? Quali parole usi più spesso? Che noia, tutto mi va male, quello mi ha fatto male, il mondo non va bene, la politica ci ha deluso, è tutto a me. Queste sono le cose, io guardo Facebook, no? E la mia bacheca è piena di questo. Sapete cosa faccio? Elimino, nascondo, perché sinceramente io so che la politica mi ha deluso, che il mondo non va bene, e vorrei sentirmi dire qualcos'altro. Io voglio usare il mio social per portare speranza, è la mia possibilità, è una possibilità che Dio mi ha dato di usare le parole in maniera nuova, ma non sono stata cresciuta con questa cultura. Io sono cresciuta nella cultura della parola che educa. La parola che ti lincia, la parola che ti fa crescere, è il 5 meno meno perché puoi fare di più. Questa è la cultura in cui siamo cresciuti, è vero? 5 e mezzo che non te la voglio dare la sufficienza, se no ti culli. Questa è la cultura in cui siamo vissuti, cioè sempre di meno altrimenti si inorgoglisce. Non dire niente, quando non dico niente vuol dire che va bene. Questa è la cultura in cui siamo cresciuti. Abbiamo davanti altre culture. Prendiamo una cultura, non so, di altre nazioni, in cui si parla sempre positivo, sempre bene, sempre incoraggiante. Noi non siamo di questa cultura, noi siamo la cultura del 5 e mezzo. E davanti a Giacomo che dice usa bene le tue parole, noi possiamo rispondere, senti signor Giacomo, queste parole io le voglio usare come io voglio fare. Io non sono stato educato in questa maniera, io non sono abituato a dire alle persone come sei bella. Io sono abituata a dire come sei grasso, come sei... voglio dire una cosa per tutti quanti. A chi fa bene sentirsi dire che siamo ingrassati? C'è qualcuno che dice, guarda Sara, se me lo dici io sono felicissima. E allora perché lo diciamo agli altri? E allora perché dobbiamo dire, però sei un po' invecchiato, eh? Ti fa piacere sentirtelo dire? La rivoluzione di oggi è di quello che vuoi sentirti dire. Di quello che vuoi sentirti dire. Non ci fa bene. A chi fa piacere dire, ma quanti capelli bianchi? Ma ce ne avevi di capelli in quella foto, eh? Tutti sono caduti. Che bello, bravo. Questa è la nostra cultura. Giacomo sta dicendo, usa bene le tue parole. Come stiamo rispondendo a questo invito? Non posso cambiare. Dai. Ormai ho 35 anni, sono cresciuto così, non posso cambiare. Ho 50 anni, non posso imparare ora a parlare positivamente. Siamo qui a pregare, Signore, venga il tuo regno, venga il tuo regno, venga il tuo regno. Quando preghiamo queste parole, stiamo dicendo a Dio, Signore, la cultura del tuo regno venga, venga, Signore, spingi qui sulla terra quello che succede nei cieli, spingilo qui. Quando rispondiamo a Giacomo, non posso imparare oggi, stiamo dicendo, ecco il mio regno. Non venga il tuo regno, no, questo è il mio regno. Io sono nato così, morirò così, perché sono stato creato in questa maniera. Sono nato in Italia, nel sud Italia, e da me si fa così. Nella mia casa si fa così, ancora peggio, nella mia chiesa si fa così. In quale chiesa vuoi entrare? Qual è l'atmosfera che vuoi trovare qui? Vuoi trovare un'atmosfera di fede, di incoraggiamento? Forse stai combattendo a casa tua. L'ultima cosa che vogliamo fare quando stiamo combattendo a casa è arrivare qui e trovare persone che parlano male, persone che si lamentano, persone che dicono ma guarda che il mio problema è più grosso del tuo, persone che ti dicono sei ingrassato, persone che ti dicono sei invecchiato, persone che ti dicono fai schifo, persone che ti dicono non vali niente. Questa è l'ultima cosa che noi vogliamo trovare, è vero? Ecco, ora lo possiamo creare. Giacomo ci dice che possiamo cambiare questa cultura. Amen? Sei con me in questo? Io voglio imparare a parlare bene. Oggi abbiamo cantato questo. Chi sono io perché il grande Dio mi accolga a sé? Ero perso e mi salvò il suo amore. Chi libera, libero sarà. Sono figlio suo, sì è così. Sono figlio suo, sì è così. Amen. Amen. Libertà ora ho, perché mi riscattò. Vivevo in schiavitù, ma Gesù morì. Sì, morì per me, sono scelto. E abbiamo confessato insieme, Chiesa, abbiamo confessato, credo a quello che Dio dice di me. Io credo alle parole che Dio confessa sulla mia vita. Io scelgo di credere alle parole che Dio confessa sulla mia vita. Quando cantiamo questo, dobbiamo prendere tutto quello, e forse mentre lo cantavamo a qualcuno di noi è successo, devi prendere tutto quello che hanno confessato sulla tua vita, e forse hanno confessato tante cose sulla tua vita, e forse devi prendere quello che tu hai confessato e continui a confessare sulla tua vita, e devi metterlo da parte, e dobbiamo dire ok, questo è il mio regno, ma io voglio aspettare il suo regno. Io voglio accettare il suo regno. Io credo a quello che Dio dice di me. E Dio dice che sono scelto. Dio dice che c'è posto per me nella sua casa. Dio dice che sono amato. Dio dice che sono riscattato. Dio dice che provvede le mie finanze. Se molto più di un passero, molto più di un giglio, Dio dice che sono chiamato. Dio dice che c'è un posto per me. Non sono fuori. Non sono l'ultima ruota del carro. No, Dio dice che c'è un posto per me. Io voglio credere a queste parole. Dio dice queste cose di me, io ci voglio credere. E allora che quale decisione abbiamo davanti? Credere a quello che gli altri hanno detto di noi, a quello che ti hanno detto da quando sei nato, a quello che ti hanno detto quando eri bambino, nella tua adolescente, nella tua adolescenza, i tuoi professori, i tuoi amici, tua moglie, tuo marito, i tuoi figli, lo devi mettere da parte e cominciare a credere che quello che Dio dice di te è vero. E molto probabilmente è all'opposto di quello che hanno detto di te. Ma quello che Dio dice di te è vero. Quindi oggi scegli a quale parole vuoi credere. Vuoi credere a quello che uomini hanno detto sulla tua vita o vuoi credere a quello che Dio dice di te? Io voglio credere a quello che Dio dice di me. E sai cosa? Voglio vivere in una chiesa che me lo ricorda. Voglio vivere in una chiesa che mi ricorda quello che Dio dice di me. Voglio vivere nei corridoi, nel bagno delle donne. Voglio che mentre incontro sorelle, loro mi possano ricordare quello che Dio dice di me. Che mentre vengo accolto dal team care, io posso ricordare quello che Dio dice di loro. Che mentre stiamo uscendo, possiamo ricordarci insieme quello che Dio dice di noi. Amen? Ci piace? Tutti sbagliamo a parlare. Tutti sbagliamo a parlare. Giacomo ha detto questo. Tutti sbagliamo a parlare, quindi tutti possiamo imparare. Il verso 2, tutti manchiamo in molte cose. Ma se uno non sbaglia nel parlare, è un uomo perfetto. Quanti uomini perfetti ci sono qui? Capaci di tenere a freno anche tutto il corpo. È una sfida soprannaturale. Non è una cosa naturale. Altrimenti la Bibbia non ci avrebbe parlato di questo come una sfida. Avrebbe detto, bravi, uomini perfetti, da quando conoscete Gesù parlate tutti quanti bene. No, la Bibbia dice, nessuno è ancora arrivato. quindi tutti possiamo imparare. Sapete una cosa, ho già raccontato questa aneddoto. Quando ero piccola, proprio perché sono cresciuta nella cultura del parlare duro, ho abbracciato la cultura del parlare pesante. E quindi il mio modo di rapportarmi agli altri era parole dure, parole taglienti. Più tagliavo le persone, più mi sentivo potente. Più creavo reazioni negli altri e più mi sentivo sicuro. Sicura, sempre per il taglio di capelli, sono una donna. Ok, più mi sentivo sicura. Così mia madre si è convertita e ha cominciato a fare una cosa. Durante un capodanno, un incontro di fine anno, il pastore Pinuccio chiese di mettere delle parole profetiche che ognuno voleva confessare sulla propria famiglia, su un muro con dei post-it. E ognuno poteva pregare per le parole della chiesa, no? Mia madre fece questa cosa, scrisse un post-it e disse: per mia figlia, dolcezza mia. Era un modo carino per chiedere a Dio di cambiare il mio cuore. Era il suo modo per chiedere a Dio di guarirmi dalle parole pesanti. Evidentemente l'ho ferita molte volte. Ed è successo uno switch, proprio il mio cuore è cambiato. E da avere sempre la parola più pesante, in realtà sono diventata troppo sensibile alle parole, no? Voi lo sapete, anche troppo, quindi queste preghiere sono esagerate, le preghiere delle mamme sono esagerate. Io ora sono quella sensibilissima alle parole, mi piace parlare parole positive, ho difficoltà a dire parole negative, ma questo ha cambiato la mia vita, questo ha cambiato il clima intorno a me, mi ha resa più approcciabile. Non devi avere paura quando hai accanto persone che parlano bene. Quando hai vicino persone che sai che ti feriranno, la cosa che facciamo è scappare. Nessuno di noi vuole essere ferito. Quale clima c'è intorno a te? Le persone hanno facilità a stare accanto a te? O se ne scappano per paura che tu dica qualcosa di sbagliato? Quando ti vedono cambiano strada o vengono a casa tua a prendersi il caffè? Chiediamocelo. Io lo sto chiedendo, io voglio imparare ancora. Io voglio imparare a parlare e a diventare dolcezza mia. Questa è la parola di mia madre. La Bibbia dice nel verso 3 di Giacomo, proprio al capitolo 3, se mettiamo il freno ai cavalli perché ci ubbidiscano, noi possiamo guidare anche tutto il loro corpo. Ecco, anche le navi, benché siano grandi e siano spinte da venti impetuosi, sono guidate da un piccolo timone. Dovunque vuole il timoniere, così anche la lingua, che è un piccolo membro, eppure si vanta di grandi cose. Osservate, un piccolo fuoco può incendiare una grande foresta. La parola è piccola ma potente. È piccola ma potente. La Bibbia ci sta dicendo, attenti, fratelli, sorelle, attenti, perché la parola è piccola ma è molto potente. Voglio chiedere a chi in mezzo a noi è diventato quello che qualcuno ha detto sulla tua vita quando eri piccolo. Forse sei diventato esattamente quella parola che è stata profetizzata sulla tua vita, nel bene o nel male. Se sei diventato qualcosa che Dio non vuole, hai ancora il tempo per cambiare il tuo destino. Sei ancora in tempo. Quale effetto hanno avuto su di te le parole degli altri? Ho letto un libro di una donna, Christine Kane si chiama, una speaker molto famosa in tutto il mondo, che in questo momento, oltre che predicare nei più grandi stadi, ha cominciato una operazione per salvare altre donne schiave della sessualità. Sapete la sua storia da cosa nasce? Una donna, una bambina adottata da un'altra nazione, abusata dalla prima famiglia, dalla seconda famiglia, e quello che avevano detto sulla sua vita è che sarebbe diventata una schiava del sesso, che sarebbe diventata una nulla facente. Poi ha conosciuto Gesù e un pastore ha profetizzato sulla sua vita, dicendo: Christine, tu diventerai liberazione per tante. Come Dio si è rivelato al tuo cuore, come Dio ha cambiato il tuo cuore, Dio ti userà per cambiare il cuore di molti. Questa è una storia straordinaria. Sapete chi voglio essere io di questa storia? Quel pastore che dice un destino soprannaturale. Io voglio essere, io voglio essere, io voglio essere quella persona che guarda in faccia chi è accanto, chi ho vicino e spinge destini soprannaturali. E li spinge a credere delle cose che non avrebbero mai creduto. Perché? Perché noi abbiamo un Dio dell'impossibile. Come si fa questo? sii allineato con la verità del tuo Dio e spingi quella verità nella vita degli altri. Qual è il mio mestiere? Io voglio spingere la verità di Dio nella vita degli altri. Io voglio assolutamente convincerci che il nostro Dio è un Dio potente. Voglio morire, sapete come? Avendo convinto il maggior numero di persone a fare quello che Dio vuole per loro. Io voglio morire avendo spinto le realtà soprannaturali nella vita di quante più persone al mondo. Questo è il mio scopo di vita. Come vogliamo farlo? Allineiamoci con la verità di Dio. Parliamo parole potenti. Parliamo parole potenti. Amen. Hai ricevuto parole potenti. Hai ricevuto parole potenti. Perdona. Perdona. Oggi è un'occasione, è una sfida. Dio te lo sta mettendo davanti, qui sul piatto. Credi a quello che Dio dice di te. Perdona chi ha detto parole pesanti. Forse hai detto parole pesanti. Chiedi perdono. Anche questo Dio ce lo sta mettendo sul piatto oggi. Chiedi perdono. Chiedi perdono. Chiedi grazia nei tuoi riguardi. Forse hai parlato male, forse hai sbagliato a parlare, forse hai esagerato, forse hai detto delle cose che non sono vere. Chiedi perdono. Chiedi perdono. Noi vogliamo vivere in una chiesa che si perdona a vicenda. Amen. Che si rilascia grazia a vicenda. Nessuno di noi è arrivato a questo. Magari fossimo tutti arrivati, ma siccome non siamo arrivati, diamoci questa opportunità. Amen. Ho fatto un elenco di frasi tossiche, perché la Bibbia parla della parola come piccola ma velenosa, della lingua come piccola ma velenosa, dal verso 6 al verso 9, no? Abbiamo letto, e c'è veleno dentro. Ho fatto un elenco di frasi tossiche che non dovremmo dire mai ad un bambino. Le vuoi sentire? Se fai così non ti voglio più bene. Faccio io, tu non sei capace, non sai farlo. Tu sei cattivo, gli altri bambini sono più buoni di te. Tuo fratello o tua sorella si comporta bene, perché tu no? Vai via, non voglio vederti. Piangi per niente, piangi per niente. Non ci riuscirai mai. Sei grasso, sei brutto, non sei intelligente. Sei come tuo padre, sei come tua madre, o sei come qualcuno. Non ho tempo ora per te. Quando sarai grande capirai. Quando sarai grande capirai. Che brutte frasi. Che brutte frasi. Bruttissime. Voglio darci tre modi per comunicare in maniera più efficace e sensibile. Tre domande che dobbiamo porci quando stiamo per parlare. Uno, che cosa vogliamo comunicare? Cosa vogliamo comunicare? Cioè, cosa vuoi comunicare sul pianerottolo di casa tua con il tuo vicino? Cosa vuoi comunicare ai tuoi professori? Abbiamo visto tutti questa settimana questo video bruttissimo di questo alunno che inveiva contro il suo docente, parlando parole pesanti. A un certo punto questo ragazzo ha detto: si inginocchi. Cosa vogliamo creare? Cosa stiamo creando? Cosa stiamo creando? Quindi la prima domanda è: cosa voglio comunicare? La seconda domanda è: come posso comunicarlo meglio? Lo sai che ci sono tantissimi modi per dire le cose? E ultimamente devo riflettere sul fatto che io ho facilità a dire qualcosa, ma mi interessa di più sapere qual è il modo migliore per l'altro di riceverlo. E non importano i miei sforzi. Io devo mettermi nei panni degli altri e capire come può meglio ricevere quello che io voglio dirgli. Come posso comunicarlo meglio? Come posso fargli capire meglio quello che ho nel cuore? La terza domanda è: quale impatto avrà quello che dico sulla vita degli altri? Quale impatto ha quello che dico sulla vita degli altri? Come vuoi che le persone vadano via? Qual è il gusto che ricorderanno dopo aver parlato con te? Qual è il profumo che gli avrai lasciato? Profumo di lamentela, profumo di pesantezza o profumo di vita, profumo di speranza, profumo di pace? Tutto quello che diciamo ha impatto sugli altri. Giacomo conclude questa parte, l'insegnamento sul linguaggio, dicendo questo: la sorgente getta forse dalla medesima apertura il dolce e l'amaro? Può forse, fratelli miei, un fico produrre olive o una vite fichi? neppure una sorgente salata può dare acqua dolce. Amen. Cosa ci sta dicendo Giacomo? Chi è la tua sorgente? Di cosa è fatta la tua sorgente? Cosa c'è nella tua sorgente? C'è per forza acqua amara. Ma ci ricordiamo quello che è successo nel deserto. Il legno ha trasformato le acque amare in acque potabili. Il legno è Gesù Cristo, ricordiamolo sempre. Giacomo non sta dicendo: cari, sforziamoci, mi raccomando, alleniamoci costantemente. No, sta dicendo: la sorgente è amara, è piena di amarezza, delusione, rigetto, rancore, peccato. Ma facciamolo diventare dolce. Facciamolo diventare dolce. Come? Cristo Gesù. Cristo Gesù. Quando puoi parlare parole di vita? Quando vivi vita? Quando vivi speranza? Quando vivi gioia? E come facciamo a vivere speranza, gioia, pace? Il legno. Il legno. Gesù è vivo. Cristo Gesù. Amen. Cristo in noi. Strategie per evitare incendi. Volete sentirli ancora? 4 strategie. Prima di parlare, conta fino a 1 milione. 1 milione. Vedrai che prima di arrivare ad 1 milione avrai dimenticato quello che stavi per dire ed è meglio così. Conta fino a 1 milione. Amen. Puoi cliccare mi piace a questo? Mi piace. Conta fino a 1 milione. Conta fino a 1 milione. Quanto è vero questo tra marito e moglie? Io sono grata a Dio per mio marito, che non conta fino a 1 milione, ma fino a 2 milioni e a 3 milioni. Che bello avere questo in casa. Che bello non vivere con persone che sono pronte a spararti la mitragliatrice della parola pesante e a dirti quanto fai schifo, quanto stai sbagliando, quanto non stai facendo quello che ti ho chiesto. Io sono molto benedetta da mio marito, lui parla parole buone sulla mia vita, anche troppo a volte, ma sono molto grata che mi fa vivere in questo ambiente. Io voglio stare con mio marito perché lui mi benedice. Vuoi stare con tua moglie? Vuoi stare con tuo marito? No. Bene, cominciamo a cambiare questo clima. Amen. Sii la persona con cui chiunque vuole stare, anche tua moglie, anche tuo marito, anche i tuoi figli. Aiutati con la comunicazione non verbale. Il 70% di quello che diciamo ha a che fare con come lo diciamo. Quindi vogliamo dire una cosa, attento a come la dici. Lo sguardo, la vicinanza, il tono, gli occhi. Attento a farci supportare dalla comunicazione non verbale. 3, aspetta il momento giusto. Non sempre è il momento giusto per dire quello che pensi. Te ne sei accorto? Cioè, se lo dici tra 2 giorni, non muore nessuno, ma se lo dici in quel momento potrebbe morire qualcuno. Allora aspetta, sgasati, no? Apri la bottiglia, sai, con l'acqua minerale, la devi fare un po' sgasare e poi più andare. Questa è una strategia nella comunicazione di coppia, giusto, Saverienza? Ultimo esempio, offri un sandwich. Sai cos'è il sandwich? Questa è una tecnica sviluppata negli upside down. Cioè, questi sono anni di lavoro, offri un sandwich. Gli upside down sono il gruppo dei giovani più bello del mondo. Amen? Sono dappertutto in questa chiesa. Non c'era bisogno di correggerli mai, perché erano fantastici. Ora lo sono ancora di più. Marionella fanno un lavoro facilissimo, quindi arrivano ed è tutto un giardino. Quindi, però, quando c'eravamo noi, qualche volta dovevamo dire qualche cosa. E molti degli upside down che sono qui presenti hanno ricevuto da me un sandwich. Com'è il sandwich? Di una parola buona, di quello che va male e finisci con la parola buona. Di una parola buona, di quello che non va bene, ma finisci con una parola buona. Faccio un esempio. Ehi, tu sei incredibile. Io so quello che Dio ha per te e Dio ti ha chiamato a grandi cose. E io lo vedo nella tua vita. Però non puoi continuare a vivere una vita che non è pura. Questo non è in linea con la chiamata straordinaria che Dio ha per te. devi abbandonare il peccato. Quello che è nero, è nero. Non puoi vivere nel grigio, devi abbandonarlo perché Dio ti chiama ad una vita pura. Ma io credo che tu ci possa riuscire. E io voglio essere con te. E io so che ci riuscirei bene. E io vedo già quello che Dio farà con te. Amen. Offri un sandwich. Offri un sandwich. Buono, correggi, è buono. Questo con i figli è straordinario. Se facciamo crescere una generazione nuova in un clima di vita, come cambieremo questo mondo in bene? Eh? Che bello. Vogliamo alzarci in piedi e concludere? Ti senti incoraggiato questa mattina? Vuoi un sandwich? Vai dal tuo capogruppo, chiedigli un sandwich. Sicuro ce l'ha pronto, sicuro. Il mio pastore ha un buffet di sandwich per me. Grandissimo. Me li dà al momento giusto. Sceglie il momento giusto. Il mio pastore è un maestro nella comunicazione. Che bello. E viviamo in una chiesa che vuole crescere in questo. Noi viviamo in una chiesa che vuole crescere in questo. Viviamo in una chiesa, e tu sei questa chiesa, che vuole vivere in un clima di vita, che vuole spingere le persone nel meglio, che non è lì a ricordargli le cose sbagliate, le cose in cui non è riuscito, le cose brutte, le cose in cui fallisce, ma è lì a continuare a credere la verità di Dio per te, a spingere la verità di Dio per te. Amen? Vuoi essere questa chiesa con me? Chi vuole essere questa chiesa con me? Amen. Amen. Io voglio essere questa vicina di casa. Io voglio essere questa amica di banco. Io voglio essere questa collega di lavoro. Io voglio essere. Com'è il tuo posto di lavoro? Un genocidio. Io lo trasformerò in un giardino. Perché? Perché voglio che Dio usi la mia bocca in una... Per dare acqua. In un annaffiatore di un giardino. Io voglio che Dio usi le mie parole per essere un annaffiatore di giardino e non una mitragliatrice. Perdona e chiedi perdono e chiedi a Dio di purificare la tua sorgente. Fallo entrare di più, facciamolo entrare di più, in maniera che possiamo diventare fonte di acqua dolce. Amen. Andiamo a pregare insieme. Gloria a te Padre. Se Dio ti sta sfidando in questo argomento, puoi prendere un attimo per essere trasparente con Lui. E con gli occhi chiusi, proprio chiedi a Dio, Signore, dammi la forza per perdonare le parole sbagliate, le parole pesanti che hanno sparato sulla mia vita. Chiediglielo ora. Signore, dammi la forza per perdonare. Io credo a quello che Tu dici di me. Io non voglio credere a quello che il mondo dice di me, i miei amici dicono di me, coloro che mi hanno ferito nel passato. Io non voglio credere a quelle parole. Se stai combattendo in una malattia, confessalo con me. Io non credo a quello che dicono i medici di me. Io non credo a quello che dicono degli esami medici di me. Io voglio credere a quello che Dio dice di me. Se stai vivendo in un conflitto, sento proprio che ci sono conflitti nelle famiglie. Figli, credete a quello che Dio dice di voi. Genitori, confessiamo parole di vita. Confessa parole di vita. Non credere a quello che ti hanno detto i tuoi figli in un momento di rabbia. Non credere a quello. Mariti, mogli, crediamo a quello che Dio dice di noi. Crediamo a quello che Dio dice di noi. Chiedi perdono. Oggi, chiedi forza. Signore, dammi forza per chiedere perdono. Dammi forza, Signore, per riconoscere i miei errori. Dammi forza, Signore, io voglio parlare parole buone. Ti prego, Signore, fammi riconoscere quando le ho dette sbagliate, quando ho ferito. Signore, fammi riconoscere questo. Io voglio parlare parole Tue. Signore, io Ti chiedo di usare la nostra bocca come Chiesa per cambiare questo mondo. Signore Gesù, io Ti chiedo di cambiare questo mondo tramite le nostre parole e che diventino parole di fede, parole di speranza, parole di fiducia, parole di vita, parole di incoraggiamento. Signore, ti prego che sempre di più la tua verità possa essere nel nostro cuore, che possiamo imparare a spingerla in chi non ci crede, a spingerla in chi non la vede. Padre, io ti prego di insegnarci a potenziare la nuova generazione con le verità che tu hai, con la chiamata straordinaria che tu hai. Ti prego, Signore, serviti di noi per benedire la Chiesa in Italia. Oh Padre, vogliamo benedire la Chiesa italiana. Signore, vogliamo veramente proclamare la tua benedizione, la tua libertà, il tuo perdono da nord a sud per la Chiesa in Italia. Nel tuo nome, Gesù, noi proclamiamo vita sulla Chiesa italiana, noi proclamiamo vita sulla nostra nazione, noi proclamiamo vita, speranza per il nostro, per la nostra politica. Nel tuo nome, Gesù, noi vogliamo parlare le tue parole, vogliamo credere alle tue e parlarle con fede, Signore. Serviti di noi, nel tuo nome, Gesù. Gloria a te, Padre.